Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, dove vi sarà anche la nostra poco invidiabile classifica. Dico vi sarà con una certa esitazione, perché la puntata sarà chiaramente anche orientata in base alle notizie che dovrebbero arrivare, non sappiamo chiaramente se da quale, 6:30 o più tardi, dagli Stati Uniti, dove insomma poco fa Nancy Pelosi ha chiamato Biden il presidente eletto, però c'è ancora molta incertezza nella ufficializzazione di quella che sembra una vittoria abbastanza se non certa, e in Georgia vi sarà il riconteggio comunque dei voti. Comunque chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso del programma. Per quello che invece riguarda i mercati, oggi c'è stato un po' di nervosismo, ma più che altro non sull'esito elettorale, sui dati sul lavoro degli Stati Uniti, che hanno avuto un piccolo miglioramento. Ieri c'erano stati rialzi generalizzati, ma adesso qualche realizzo ci può anche stare, e poi l'altro elemento sono gli utili e i dati delle trimestrali che stanno uscendo. Faccio l'esempio di Inuit, che ha presentato il piano dei conti, anche i conti di Tenaris, anche i conti oggi di CNH, di Case New Holland, e li cito perché sono i titoli che vanno meglio in questo momento: Inuit più 4,26, Nexi più 2,88, ma poi CNH appunto più 1,81. Per cento, Enel più 1,80, Campari più 0,70. Chi cede oggi? Continua il calo molto forte e anche preoccupante a questo punto di Leonardo, meno 7,33%, Unipol meno 3,20, Unicredit meno 3, Bipper meno 2,80, Atlantia meno 2,30, Fiat meno 1,5%, Banca Mediolanum pure, e Poste Italiane perdono l'1,30%. L'altro tema, al di là della classifica, delle notizie in breve e del responso elettorale americano, riguarderà chiaramente il DL Ristori bis, nel senso che il Consiglio dei Ministri non è ancora iniziato, comunque ci si attende che arrivi proprio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto Ristori, che vale un altro 1,5 miliardi, 2 miliardi. Sono soldi ancora disponibili, perché c'è stato un risparmio sulla cassa integrazione prevista, sul tiraggio della cassa integrazione, e non si esclude comunque di fare nuovo deficit più avanti. Allora, rispetto al DL Ristori, che abbiamo più volte affrontato, quello che prevedeva di moltiplicare il coefficiente per 1 per alcune categorie per 1,5 rispetto a quanto moltiplicare quanto avuto ad aprile nel ristoro, diciamo la liquidità a fondo perduto di aprile, veniva moltiplicata per 1, per 1,5, per 2 a seconda delle categorie, per 4 nel caso delle discoteche che non hanno mai aperto, per 2 nel caso dei ristoranti, per 1,5 nel caso dei bar. Chiaramente sto citando le categorie più note, ma il moltiplicatore per 2 arriva anche per cinema, per la ristorazione ambulante, per il catering e per chi organizza convegni e fiere, chi organizza spettacoli teatrali o gestisce i teatri o gestisce gli stadi, le rappresentazioni artistiche. Il coeficiente per 1,5, quindi se avevi preso 10.000 euro o 1.000 euro, ne prendi questa volta 1.500 o 15.000, vale invece per alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e bar, quindi è più alto chiaramente per i ristoranti, perché si riteneva e si ritiene che il danno sia più forte nella chiusura alle 18 per i ristoranti che non per i bar o per gli alberghi. Perché c'è bisogno di un DL Ristori bis? Perché chiaramente con l'introduzione delle zone arancioni, delle zone rosse, intanto vanno riaggiornate, perché bar e ristoranti nelle zone rosse e arancioni sono chiusi. Poi sono entrate altre categorie, ieri abbiamo fatto l'elenco delle categorie che invece possono restare aperte, oggettivamente sono molto di più rispetto al lockdown di marzo e aprile, ma ci sono tante altre categorie che sono entrate, che devono essere chiuse, come oggi sa chi abita per bontà sua, diciamo, nelle zone rosse: Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Calabria. Anche di questo parleremo, perché ho visto che da questo punto di vista c'è stato una ci sono state varie posizioni. Da un lato, anzi, le possiamo citare subito: il governatore Cirio, governatore del Piemonte, che ha detto le zone non rispettano i parametri reali, adesso dobbiamo parlare di posti letti, di curare i malati, però la fotografia che ha deciso le zone non rispetta i parametri reali sulla diffusione del virus, noi abbiamo un RT che decresce e abbiamo adottato misure senza aspettare il governo, per esempio la chiusura delle superiori, il trasporto pubblico locale al 50% da quasi un mese, così come la chiusura del sabato e la domenica dei centri commerciali. Faccio notare però che la situazione del Piemonte, guardando le immagini e le notizie che ci arrivano, per esempio sull'attesa delle ambulanze nei principali ospedali della regione, è tutt'altro che una situazione, diciamo, serena, mettiamola così. Per quello che riguarda invece la Lombardia, ha corretto un po' il tiro il governatore Fontana, ha detto: io non sono contrario alle zone rosse, ma tutte le settimane si fanno le valutazioni, ma volevo che fossero valutati meglio i dati. E però poi ha aggiunto Fontana: la situazione a Milano è grave, forse come a marzo. A marzo era concentrata su Milano, adesso si è concentrata su Bergamo, adesso si è concentrata su Milano. Che la situazione sia grave lo possiamo desumere, con buona pace, diciamo, delle proteste sulle zone rosse, le zone arancioni, da quanto è stato deciso ieri dalla ATS, cioè dalla ASL di Milano, si chiama ATS Milano, Agenzia di Tutela della Salute della città. Ora, siccome tutte le persone con cui abbiamo parlato, e anche come con esperienze personali, lamentano attese della ATS per essere chiamati, per sapere che cosa fare, che vanno da una settimana a 10 giorni, vale per gli istituti scolastici quando segnalano un caso, o segnalavano, le superiori sono a casa, e anche le medie inferiori, tranne che la prima media, ma dicevo, e vale anche per i privati cittadini. Allora, ricorderete che l'ordinanza del Ministero della Salute prevede sostanzialmente che per chi entra in contatto e è ritenuto a rischio, contatto stretto, quello non ritenuto a rischio, significa conversare, essere in contatto senza distanza e senza mascherina per almeno un quarto d'ora con una persona positiva. Questo include di solito tutti i familiari della persona che è risultata positiva, perché è chiaro che in casa di solito le mascherine non le porti e tendi ad avere contatti anche ravvicinati per più di un quarto d'ora. Cosa succedeva? Cosa succede? L'ordinanza del Ministero prevede che tu possa stare 10 giorni in casa e poi fare un tampone, quindi autoisolamento più un tampone, oppure 2 settimane senza tampone. Ebbene, a Milano è talmente alto il numero delle persone che hanno già sviluppato i sintomi che l'esecuzione del tampone non è più considerata prioritaria per i contatti stretti, cioè per quelli che sono venuti a contatto. Citavo i familiari perché sono il caso più facile, per quelli che sono venuti a contatto con il positivo. Quindi nessun tampone, i tamponi verranno fatti solo chi accusa sintomi evidenti, chi è un contatto stretto, e quindi verrà meno anche l'attività di contact tracing, come si chiama. Tanto mancano le risorse, mancano le forze, l'ATS non era pronta a livello lombardo e anche a livello milanese, non sono state fatte le assunzioni neanche a carattere temporaneo. Io continuo a non capire cosa ci volesse a prendere delle persone magari ai primi anni della specializzazione in infermeria o in medicina e metterle a rispondere al telefono e chiamare in maniera seria, non dopo una settimana o 10 giorni, quando ormai l'altro isolamento te lo sei già fatto e comunque hai lasciato le persone a rischio cosiddette, quindi i contatti stretti liberi di fare quello che volevano, tutto è basato sull'autodisciplina, diciamo, del singolo. E quindi sostanzialmente a questo punto i tamponi si fanno solo ai contatti positivi. I punti operativi comunicati ai medici di famiglia sono infatti 3. I medici dovranno spiegare agli assistiti che devono sospendere l'esecuzione dei tamponi per i contatti stretti. In assenza del test, cosa fanno queste persone, i familiari, i contatti stretti? Stanno a casa in quarantena fino a 14 giorni, quindi non c'è la possibilità dopo 10 giorni di fare il tampone. te ne stai a casa per 2 settimane e poi senza sintomi esci. Cioè è l'alzare le braccia nei confronti non solo del tracciamento ma anche dell'ipotesi di tampone. E poi la priorità appunto ai tamponi viene data ai casi sospetti, a chi ha diciamo dei sintomi sospetti, e poi si dovrà evitare nel modo più assoluto che i pazienti raggiungano gli ambulatori dei medici di famiglia, solo i sospetti segnalati dalle scuole come da protocollo per l'accesso diretto. È chiaro che l'assenza di un tracciamento in queste settimane e l'assenza di una telefonata, di un contatto, ha portato anche molte persone, un po' per paura, un po' per ignoranza, in senso che non sapevano cosa fare, a recarsi nel pronto soccorso e quindi intasando ulteriormente il pronto soccorso. Ecco perché dicevo, era inutile fare tante polemiche sulle zone rosse in Piemonte e in Lombardia. Devo dire che su questo è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, che oggi ha detto non vogliamo dare schiaffi a nessuno, e ha ricordato come, poi ne parleremo nella seconda ora, ma voglio far sentire solo questi due passaggi, come nel Ristori Bis vi sarà anche il credito d'imposta al 60% sugli affitti di ottobre, novembre, dicembre, e lo stop ai contributi previdenziali per i dipendenti e il rinvio dei versamenti per chi ha gli ISA, che sono gli indici sintetici di affidabilità. Sentiamo. Noi oggi non interveniamo, non stiamo dando schiaffi a nessuno, non stiamo creando una deliberata volontà, non c'è dietro una deliberata volontà di penalizzare aree a discapito di altre. Siamo intervenuti già con dei riduttori di velocità. Oggi entrano le misure, oggi entriamo in Consiglio dei Ministri con un decreto ristori bis. Per quanto riguarda altre misure, cancelliamo la seconda rata IMU, anche in questo caso per tutti i proprietari che siano anche gestori. Il credito d'imposta al 60% per gli affitti, affitti, attenzione, ottobre, novembre e dicembre. Poi ancora la sospensione dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti. Poi chi ha i cosiddetti ISA, no? I contribuenti ISA, cioè gli indici sintetici di affidabilità, anche qui rinvieranno il secondo acconto IRES e IRAP. Allora, mi fanno notare gli ascoltatori che non ho dato gli indici, avete ragione, scusate, di borsa, meno 0,24% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,75% Francoforte e meno 0,21% il Dow Jones in questo momento, Londra più 0,21%, euro su dollaro quota 1,18,80. Le altre notizie in breve, oggi non c'è moltissimo, ci sono stati i casi di ieri negli Stati Uniti, 120.000 casi in 24 ore, le dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, la banca centrale americana, che ha detto la ripresa rallenta preoccupa il balzo dei casi Covid, e poi ha chiesto al Congresso servono stimoli per aiutare la ripresa, ha lasciato i tassi invariati tra lo 0 e lo 0,25%. E ancora però appunto, come accennavo negli elementi commentando i mercati finanziari, ancora la disoccupazione è calata leggermente al 6,9%, l'economia americana ha creato 638.000 posti di lavoro, meglio delle attese, le attese erano di 580.000 posti di lavoro. Venendo all'Europa, segnalo ieri il nuovo record in Francia, lo segnalo perché la Francia ha applicato misure simili alle nostre qualche settimana prima. Un record di positivi, quasi 60.000 positivi con 447 ingressi in rianimazione. Veniamo all'Italia, oggi ci sono notizie sul famoso BTP Futura, la cui sottoscrizione parte lunedì prossimo, lunedì 9 novembre, avrà tassi cedolari minimi garantiti pari allo 0,35% dal primo al terzo anno, lo 0,60% dal quarto al sesto anno e all'1% nei restanti 2 anni di vita. E l'Istat oggi ci dice che c'è un recupero incerto, diciamo che c'eravamo anche arrivati, un esito incerto sulle prospettive complessive dell'economia italiana, perché dopo il deciso recupero segnato nel terzo trimestre i principali indicatori congiunturali sono tornati vicini ai livelli pre-crisi sanitaria e le prospettive per i prossimi mesi appaiono incerte, ci dice l'Istat, anche se segnala come a ottobre gli indici di fiducia abbiano fornito segnali discordanti, perché c'è un lieve calo nella fiducia dei consumatori, mentre quella delle imprese è migliorata. E Federdistribuzione oggi segnala prospettive molto pesanti per tutto il settore non food, non alimentare, perché le vendite al dettaglio relative a settembre fanno segnare un più 1,3% sull'anno prima in valore. Però mentre l'alimentare ha fatto più 3,8%, siamo ancora a settembre, il non alimentare ha fatto meno 0,6% sul settembre del 2019 come valore, ed è probabile che chiaramente con le chiusure delle aree arancioni e rosse tutti questi dati peggiorino. La Coldiretti stima che con il nuovo DPCM vi saranno 128.000 tra ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi che saranno chiusi nelle 6 regioni arancioni e rosse, con una perdita di fatturato mensile di almeno 2 miliardi e 700 milioni, ma tra l'altro con un effetto a valanga sull'intera filiera, perché sappiamo che poi bar e soprattutto ristoranti, agriturismi, pizzerie acquistano prodotti italiani di solito, e oltre prodotti sia alimentari che vino, e quindi il danno non sarà solo, diciamo, sui fatturati dei singoli soggetti chiusi, ma su tutta la filiera, perché quando sei chiuso ovviamente non fai approvvigionamento. Oggi lo sciopero nazionale dei taxi, l'adesione definita totale dai sindacati tassisti. Il nostro Alessandro Rona ha raccolto alcune voci a Roma nella manifestazione nazionale davanti al Ministero dell'Economia. La situazione dei tassisti a Napoli, un po' come tutto il resto d'Italia, è drammatica. Abbiamo incassi ridotti di circa l'80-90% con delle soste ai posteggi lunghissimi. Si tratta anche di una, solo due corse al giorno. Chiediamo interventi strutturali al governo, visto che la crisi sarà lunga, anzi lunghissima. Tra parte delle attività che ormai lavorano in smart working, il turismo, che anche su Genova ha un buon peso, è praticamente fermo, è tutto fermo. Il settore è sostanzialmente abbandonato, un po' diciamo come tutta la piccola imprenditoria italiana. Per darvi un numero, considerate che da marzo ad oggi abbiamo mediamente ricevuto un importo di circa 275 euro a impresa. Abbiamo bisogno di aiuti ben più forti. Siamo qui perché il governo continua a trattarci da lavoratori di serie B. Allora, nel frattempo sono usciti anche i dati di oggi, purtroppo c'è un nuovo record di contagi e alte anche le vittime. È da aprile che non registravamo 446 vittime in un giorno, i contagi sono 37.000, cioè 37.809, le persone risultate positive quasi 38.000. Però un numero molto molto alto, un nuovo record di tamponi, 234.245 tamponi, nuovo record, sono 15.000 tamponi più di ieri. La cosa importante, come sappiamo, sono le indicazioni delle cliniche, quindi le vittime da un lato, ma anche il rapporto positivi tamponi. Purtroppo è salito rispetto a ieri di quasi un punto percentuale, siamo al 16,14%. I ricoverati sono 24.000 nei reparti ordinari, 750 in più rispetto a ieri, quindi stiamo parlando di dati clinici, lasciate stare il numero di positivi perché i tamponi sono record, ma questi sono dati clinici. Quindi ci sono 750 ricoverati in più di ieri, e 124 dei quali sono in più in terapia intensiva, perché le terapie intensive sono arrivate a 2.500 persone. Sappiamo che tra 2.500 e 3.000 è situata la soglia critica sulle terapie intensive. Faccio notare che in Francia si viaggia, come ricordavamo, ampiamente sopra le 4.000 terapie intensive. Lo dico perché anche qui la Francia ha dei dati come posti di terapia intensiva molto simili a quelli italiani. È chiaro che però, attenzione, ne ha 6.500 attrezzate, non è che le altre siano vuote, ci sono pazienti che erano in terapia o finiscono in terapia intensiva per altri motivi. Comunque, insomma, i dati non sono granché, mettiamola così oggi. Allora, prima di andare alla classifica, do il numero 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. La classifica della settimana. Allora, andiamo sulla poco invidiabile classifica. Partiamo come sempre bassi dal quinto posto, perché stiamo tenendo fuori dalla classifica tutto ciò che riguarda, se riusciamo, la pandemia e le criticità sulla pandemia. Però c'è una caccia, diciamo, al nome, all'identità di un professionista che è un noto legale, un noto avvocato di Soverato in provincia di Catanzaro. Che cosa è successo? Lo ha beccato la Guardia di Finanza, il comando provinciale di Catanzaro, gli ha notificato un avviso di conclusione delle indagini e lo ha fatto a lui e anche alla sua moglie, indagati ambedue per truffa aggravata, danno dello Stato e falsità ideologica in atto pubblico. Chi è? Sarebbe interessante avere il nome, purtroppo a Soverato si stanno chiedendo tutti chi sarà, oddio, è un modo di dire perché molti l'hanno già capito. Comunque, lui è stato assegnatario a tempo indeterminato di una cattedra presso un istituto scolastico in provincia di Bologna. Beh, dici, fin qua tutto bene. Il problema è che in questi tre anni, se non ricordo male, è riuscito a produrre dichiarazioni mediante le quali ha potuto fruire di ben 853 giorni di assenza. 853, cioè, se leviamo i sabati e le domeniche, arrivi ampiamente a più di tre anni e mezzo, tutti regolarmente retribuiti. Perché questo? Perché i finanzieri hanno scoperto, mediante appostamenti e videoregistrazioni, che lui non andava, pur essendo pagato in provincia di Bologna, dove aveva la cattedra, ma continuava a esercitare la professione forense. Come faceva a non andarci? Beh, perché lui aveva dichiarato che avrebbe dovuto assistere la suocera portatrice di handicap. Ora, voi sapete quanto mi incavolo io su chi abusa delle facilità che la legge dà, giustamente, per chi ha un parente portatore di handicap. Lui sembrava anche sfatare il mito della suocera che sta antipatica al marito. In realtà era tutto un inghippo, perché la moglie, che si è qualificata come avvocato ma ancora non è mai stata iscritta all'albo dell'ordine, almeno all'epoca dei fatti, aveva falsamente attestato di esercitare l'attività forense presso lo studio del marito e di non poter pertanto prestare la dovuta assistenza alla madre, e quindi il marito non poteva recarsi nella sua cattedra a Bologna perché doveva assistere la suocera, visto che la figlia, sua moglie, era in studio a fare assistenza. Una roba che, voglio dire, ma come ti viene in mente? Ma chi ci può credere? Allora, rendendo così indispensabile l'assenza del docente dall'istituto, appunto, in provincia di Bologna. Allora, la coppia risponderà in concorso dei reati di truffa aggravata, danni allo Stato, falsità ideologica in atto pubblico. E tra l'altro l'avvocato dipendeva in quel caso anche dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Procura regionale valuterà i fatti connessi ai profili di danno erariale e il recupero, ci auguriamo, di quanto indebitamente percepito. Ma io dico, ma anche lei, ma come fa a immaginare che 853 giorni di assenza per assistere la suocera, praticamente un santo, perché tua moglie, cioè la figlia ovviamente della suocera, deve stare in casa, deve stare nel tuo studio legale, mentre tu puoi tranquillamente non esserci. Un mito, dai. Allora, peggio ancora mi sento sul quarto posto, però visto che sono le 17.35 andiamo su Meteo Pubblicità, poi andiamo con quarto, terzo, secondo e primo, dove torna una coppia formidabile. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti, andiamo sul quarto posto della classifica. Avevo promesso che avremmo cercato, lo stiamo facendo, di occuparci il meno possibile di sprechi, scandali legati al Covid, però questa non ce la faccio proprio, perché non voglio tornare sulla polemica, ne ho già fatta moltissima con il ministro Azzolina e anche col commissario Arcuri per i banchi, con le rotelle, per quando sono state fatte partire le gare, tutti i produttori che ci dicevano attenzione, non ce la faremo mai. Nel frattempo però si pensava ai banchi, ma nessuno ha pensato al trasporto, a obbligare i presidi o in maniera più chiara al distanziamento negli ingressi. Comunque, pensate come deve sentirsi la preside, la dirigente Roberta Bruatto, che a Cirie nel Torinese si è vista per il liceo cittadino il Fermi Galilei, si è vista recapitare il giorno lunedì 2 novembre 1200 banchi a rotelle. Voi dite, qual è la notizia? Peccato che dal 2 novembre tutti gli studenti delle superiori piemontesi stanno a casa, a dimostrazione che c'è stato un leggerissimo sfasamento tra l'arrivo dei banchi a rotelle e il fatto che i ragazzi sono stati portati con o senza rotelle a casa di nuovo a fare didattica a distanza. Ma ho già detto che non frega niente a nessuno dei ragazzi delle superiori, tutte le regioni in maniera autonoma hanno chiuso, anche più di quello che non avesse chiesto il governo, le superiori, tanto per partire diciamo avanti. 1200 banchi e rotelle sono in realtà sedie con rotelle da ufficio e un ripiano pieghevole mandati dal Ministero dell'Istruzione. Dice la dirigente Roberta Bruatto: belli, sono colorati, occupano poco spazio, peccato per i tempi della consegna, eravamo già in didattica a distanza al 50% dall'inizio dell'anno, poi al 75%, facevamo alternare le classi una settimana in presenza e tre no, biennio del tecnico, biennio del liceo, triennio del tecnico e del liceo, avrebbero voluto frequentare una settimana a turno, però la regione ha deciso tutti a casa, anche perché il presidente della regione Cirio ha ammesso nell'ordinanza l'inadeguatezza del trasporto pubblico, spiegando che gli studenti più grandi si ammalano di più perché viaggiano sui mezzi pubblici. Te credo, il bambino elementare mandarlo da solo sul mezzo pubblico ha più difficoltà. E la professione e la direttrice, la dirigente Bruatto ha commentato: certo, se la logica è anche quella di non creare raffollamento sui mezzi di trasporto, è meglio tenere ragazzi e docenti a casa. Vorrei solo, ho una curiosità, ma sti 1200 banchi a rotelle poi verranno utilizzati, immagino, almeno li terranno per le rotelle, che sembrava la grande chiave di volta per evitare la seconda ondata del Covid nelle scuole, la rotella, almeno usateli in questo momento, staranno lì in attesa che qualcuno su sti banchi si sieda e magari spinga anche ste rotelle. E vorrei sapere se un caso isolato o ci sono dirigenti di vari plessi scolastici in Italia che si stanno vedendo recapitare adesso i banchi con le rotelle. Allora, al terzo posto qui abbiamo messo due notizie simili, perché e siamo sempre, perché ci sono i furbi che sono ladri, ma ci sono anche i pirla. Mi spiego, a Verbania, allora, c'è una signora che è un'operatrice giudiziaria del Tribunale di Verbania, dal luglio del 2014 al giugno del 2016 era prima in congedo retributivo, poi in malattia. Che è successo? Che si sono accorti, ma pure lei, io dico, che anziché accudire la madre, sempre ste mamme, prima la suocera, la mamma, poi dicono che non ci prendiamo cura degli anziani, che vogliamo ghettizzare gli anziani, ma qua tutti che si occupano delle mamme, anziché accudire la madre, gestiva un bed and breakfast a Ostuni in Puglia, lei, faccio notare, che è di origine brindisina. E ci ha messo poco i carabinieri di Verbania a verificare, Verbania e Arona, con un rito, e lei è finita il processo con un rito abbreviato. Ho solo le iniziali, si chiama S.G. classe 1957, condannata a 3 anni di reclusione, 800 euro di multa per truffa aggravata e danni dello Stato, e dovrà risarcire 55.000 euro di danni. Ha già rimborsato 35.000 euro, ma è stata disposta comunque, per garantire la piena restituzione dell'importo, anche la confisca, per un ammontare equivalente, dell'immobile di un immobile di sua proprietà. Ma io mi chiedo, ma come fai a gestire un bed and breakfast a Ostuni, molto visibile, con turisti, se ti sei messa prima in congedo retribuito e poi in malattia? Cioè, qui oltre che essere dei ladri c'è anche un senso di impunità assurdo, ma mai quanto quello che vi sto per raccontare, perché torna nella nostra classifica dopo anni che mancava il Teatro Politeama di Palermo. Ora i teatri sono chiusi e c'è tutta la nostra solidarietà a chi lavora, non solo gli attori, i registi, i produttori, tutte le maestranze, tutti quelli che lavorano attorno a un teatro, che sono tante persone e che in questo momento sono una categoria massacrata assieme ad altre. Però l'indagine chiaramente è precedente al Covid. Allora, 47 denunce, un'indagine della Digos addirittura, coordinata dalla Procura di Palermo, 47 denunce per truffa aggravata nei confronti della regione siciliana. Agli indagati è stato imposto dal GIP l'obbligo di presentazione periodica negli uffici di polizia. I provvedimenti coinvolgono un orchestrale e altri 15 dipendenti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, poi addetti all'area amministrativa, tecnica, alla direzione artistica, indagato pure il figlio di un dipendente che avrebbe passato il badge al posto del padre, poi altri 30 lavoratori ex PIP, cioè il bacino emergenza Palermo, assegnati dal Dipartimento Regionale del Lavoro alla Fondazione con mansioni di polizia. Insomma, i primi 15 passavano il badge, andavano a fare, e poi andavano a fare la spesa, andavano a passeggio, li hanno beccati dal barbiere, uno l'hanno beccato anche che è andato a far lavare la propria auto, per tutti molto molto impegnati sul Politeama. Gli altri invece, quelli che hanno mansioni di polizia e quindi giardinaggio, servizio di oltre a quello c'era anche la manovalanza tecnica, giardinaggio, servizio di maschere in sala, il centralino, la portineria, li hanno beccati a fare di tutto. Ora, io capisco che nel mondo dell'arte da sempre ci sia anche così una frequentazione, non dico di droghe, ma insomma che vi possa essere qualcosa di artistico anche nelle droghe leggere. Perché lo dico? Però qui siamo all'assurdo. Cioè, alcuni di questi lavoratori in servizio presso la portineria, alcuni, non uno, sono stati sorpresi mentre fumavano marijuana. E a casa di uno di loro è stata trovata anche altra sostanza stupefacente. Cioè, tu sei in portineria al Politeama e ti fai le canne, questo è il risultato. Io immagino l'ingresso in quel teatro, no? Dopo che uno tutto stonato, vai raga, ciao zio, bella lì. Ma che cosa? Stiamo raccontando l'incredibile, cioè addirittura beccati a fumarsi le canne mentre erano in servizio e chiaramente non so se ci sia spaccio, ma hanno beccato anche altre sostanze stupefacenti. Ripeto, capisco l'elemento artistico, diciamo, nello stupefacente, anche se fa male alla salute, però qui siamo veramente alle canne nel servizio di portineria. Forse c'erano troppi lavoratori, possiamo anche metterla così. Le canne in portineria. Allora andiamo sul traffico e poi secondo e primo posto. Focus Economia. ...17:50, non vi dico cosa mi sta arrivando, a teatro tutto è stupefacente, il Politeama anche di più, qualcuno mi dice non faccio il bacchettone con la marijuana. Guardate, non faccio il bacchettone, chiaramente insomma, io l'ho già detto altre volte, sono assolutamente per la legalizzazione, far pagare le tasse sia sulla prostituzione che sulle droghe leggere, figuratevi se faccio il bacchettone, però un conto è non fare il bacchettone, un conto è accettare che la portineria del Politeama si fumi gli spinelli mentre è in orario di lavoro e abbia pure altre cose a casa che non ho ben capito quali perché non sono specificate. Cioè, bacchettone magari no, però pirla nemmeno adesso, cioè, ma stiamo scherzando. Allora, andiamo al secondo posto nella classifica. Dunque, la seconda ci porta direttamente alla prima, però intanto non voglio autospoilerarmi. Allora, Lama, lo avete visto, ne abbiamo parlato, io l'ho letta e riletta. Lo scandalo del succhio. Lo scandalo del succhio sembra quasi una cosa, diciamo, che ha a che fare col programma che segue questo. No, lo scandalo del succhio è il modo in cui alcuni autisti dipendenti dell'AMA, la municipalizzata di Roma che deve raccogliere rifiuti, che dovrebbe raccogliere rifiuti per meglio dire, prelevano la benzina dai mezzi parcheggiati fuori dagli stabilimenti e la rivendono al mercato nero, in generale negli autodemolitori, 1 euro al litro. Al mese si riesce a mettere su un gruzzoletto che arriva anche a 3.000 euro a testa. No. Allora, perché si chiama scandalo del succhio? Perché il metodo è il tubo, che non è così originale, che pompa carburante da un mezzo a un altro. Un po', se qualcuno da ragazzino ha mai fatto un travaso di una damigiana, non è molto diverso, o anche da adulto, dico, non da ragazzino, mamma mia, da ragazzino per aiutare papà, o da adulto perché compra il vino sfuso, non è molto diverso, sempre si fa un succhio e poi si lascia scorrere. Allora, erano i camion e i furgoni della raccolta, non le auto, le autovetture, e quindi riuscivano a svuotare il furgone, arrivavano a prendere anche 5 taniche di benzina a notte. Il problema è che non ci sono controlli da parte di chi dirige. Sentite un po' come funzionano i controlli dentro l'AMA. Manca il controllo, o meglio il controllore, non c'è una procedura omogenea nei vari depositi, perché i depositi sono Rocca Cencia, Ponte Manmone, Via dei Romagnoli e Via dei Romagnoli ad Acilia. Praticamente ognuno va come meglio crede. In alcune zone le schede carburante sono in possesso dei dirigenti, in altre le schede con il codice riservato e il personale sono date ai lavoratori oppure agli autisti, che fanno riferimento ad altri autisti riportando su un foglio di brogliaccio. I furti di carburante quindi non vengono sostanzialmente controllati, perché in molti casi l'autista prende servizio, mette il carburante, prende un modulo bianco che si trova accanto alla pompa, scrive quanti litri di carburante ha messo, indica l'orario, la matricola, il cognome, la targa, e poi ripone il foglio dove l'ha trovato. Il problema è che a fine del turno il foglio andrà nelle mani di un capo area, non si capisce poco cosa succede a questo foglio. Okay. Il succhio io lo facevo dalla Y10 di mia madre, sì, ho capito, spero tanti anni fa, per il motorino, non lo so, per la moto, ma finché lei succhia la benzina a sua mamma, la cosa resta in famiglia. Qui c'è, per dichiarazione di una delle pentite che ha fatto esplodere l'inchiesta, ha detto: di notte gli autisti si mettono in un posto appartato, arriva un altro con la macchina che regge le taniche e svuota tutto. Io gli portavo la macchina e venivo pagata per questo. Poi una sera è passata una pattuglia e ho avuto paura e non l'ho fatto più. Ma la cosa più bella è il commento a questo della dipendente di AMA pentita. C'è gente che si è costruita una casa con sta cosa, cioè col succhio. La famosa casa col succhio. E beh, se riesci a tirare su 3.000 euro a testa, vai avanti per un po' di anni, insomma sì, certo che ti fai la casa. E sì, qualcuno suggerisce l'analisi dell'alito, vabbè. Allora, il primo posto in classifica, aspettiamo un attimo perché dobbiamo andare sul GR24, poi andiamo al primo posto in classifica, qualcuno ha già capito di cosa si tratta, si chiama legge dei vasi comunicanti, ha ragione l'ascoltatore, grazie alla legge dei vasi comunicanti che questi si sono fregati decine di migliaia di euro di carburante, perché i mezzi dell'AMA fanno riferimento poi, come spesso avviene in questi casi, hanno un loro distributore interno. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo sul GR e poi primo posto e invece il decreto ristori bis. Avete già pensato cosa farete sabato sera? Starete tutti a casa, guarderete un po' la TV, le solite facce, i soliti discorsi, scambio di messaggi, un'occhiata ai social, uno sguardo dalla finestra sulla città deserta, poi tutti a letto presto. Io vorrei darvi un'alternativa. Venite a casa mia. Anche io sarò solo sul divano con il televisore acceso. Però potremo parlare, in diretta su Radio 24 fino a mezzanotte. Ognuno potrà mettere in scena la sua esistenza, lanciare messaggi in codice, vendicarsi di chi è indifferente al suo splendore. Ogni vita è un romanzo che aspetta di essere scritto. Noi lo faremo attraverso la radio. Melog, speciale coprifuoco di Gianluca Nicoletti. Sabato dalle 22:30 a mezzanotte su Radio 24. Allora, chef, in frigo è rimasto un cavolfiore, un uovo e un limone. Sono disperato. E che problema c'è? Possiamo fare una vellutata di cavolfiore, uova arancioni, profumo di limone. Aspetta, rapa, aspetta, no? Aspetta, ci sono anche. Ho trovato il pecorino. Cioè, pecorino e poi, vabbè, le fave e il riso. Che facciamo? Come li assembliamo? Qui potremmo fare una crema di fave, salsa di pecorino con un goccio di latte e riso mantecato. Ma quante ne sai, Oldani? Ma li conosci tutti questi ingredienti? Tutti, tutti. Eh sì, e anche gli ascoltatori li conosceranno e anche quanto costano, perché è molto importante il costo. È molto importante, il portafoglio conta, però ti prego non risparmiamo sulle porzioni, che poi viene tristezza. Porzioni abbondanti. Il giusto, Pier, il giusto. Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24. 2020, anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti. Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. Signori, venite a provare i nostri formaggi! Freschi, stagionati, piccanti! Ne abbiamo di ogni tipo! Latte di mucca, di capra, di bufala! Non affannarti! Per far conoscere i tuoi prodotti anche online, fai come Michele, che con gli strumenti di Google per le aziende ha aperto nuove strade alla sua attività di famiglia, senza costi. Sentirai il sapore del nostro prosciutto già dalla home page. Scopri tutti gli strumenti di Google per la crescita di persone e imprese. Vai su g.co/italiaindigitale. Oggi più che mai abbiamo bisogno di ripensare gli spazi per il lavoro, per il tempo libero, per la nostra vita. C'è un grande complesso a Milano che sta rinascendo, riprogettato proprio per questa esigenza. Offrirà uffici di ultimissima generazione, ma non solo. Aprirà le sue porte alla città con spazi dedicati alla cultura, allo svago, al benessere e una collina verde con percorsi e aree relax. Monte Rosa 91. Nuovi uffici, nuovo verde, nuova vita. Disponibilità degli uffici e spazi retail in locazione su monterosa91.it. Però, bella la tua Ford Kuga! Ma che fa, rallenta da sola? Sì, ha letto i segnali stradali. Guarda, ha anche sterzato da sola. Per mantenere la corsia. Sì, ora mi dirai che parcheggia anche da sola. Certo. Ah. Nuova Ford Kuga ST Line con cambio automatico. Tecnologie sorprendenti. Tua 395 euro al mese, IVA esclusa, anticipo zero. Assicurazione e manutenzione incluse. Grazie al noleggio Ford L'Inclusive, che è tutto di serie ed è per tutti. Privati, aziende e partite IVA. Azimut Clearbox eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa Peer Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora andiamo al primo posto della classifica, dove in qualche modo qualcuno ha già capito che chi vi è, una coppia a noi molto cara, una coppia che se non fosse tragica potrebbe essere una coppia di ballerini. E allora vediamo chi è il vincitore. And the winner is... Beh, torna dopo mesi la coppia storica di Focus Economia nella sua classifica, Ama e Attac. Allora, una è appunto la municipalizzata dei rifiuti di Roma, l'altra è la municipalizzata dei trasporti. Qui c'è poco da ridere, purtroppo, del motivo per cui l'abbiamo messa al primo punto della classifica. Perché per anni le due municipalizzate hanno fatto un vero e proprio bilancio fai da te. Io ancora non avevo mai visto una cosa del genere. In AMA si sono aggiustati i conti secondo criteri autarchici, cioè decidevano loro. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, delegati a suo tempo dal PM contabile Massimo La Salvia, hanno trovato casi clamorosi. Il primo, ne cito solo due, è il mancato riversamento al comune dell'ammontare della Tari, che è stato trattenuto oltre ogni criterio lecito, con la scusa che andava a compensare dei crediti maturati da AMA nei confronti del comune. Il secondo caso è il mancato riversamento dell'ammontare delle concessioni cimiteriali, cioè si trattenevano tutto quello che dovevano girare il comune di Roma, per 48 milioni e mezzo di euro. Anche questo trattenuto nelle casse di AMA. Allora, c'è stato un danno per le casse pubbliche. Pensate che le sole penali per i mancati riversamenti di Tari e concessioni cimiteriali per l'AMA ammontano solo le penali a 13 milioni di euro. Tra l'altro, il mancato versamento della Tari va ad aggiungersi a questa cifra, perché il presunto danno viene calcolato in quasi 3 miliardi. È ovvio che, insomma, stiamo parlando di un danno teorico, perché l'AMA non li ha 3 miliardi, men che meno li ha l'ATAC. 2 miliardi e 900 milioni in via di ricalcolo alla luce della nuova indagine dei finanzieri. Anche la magistratura penale si è mossa su AMA e su questo c'è un'inchiesta delle PM Luigia Spinelli, Claudia Terracina, che ipotizza un falso in bilancio da parte dei vertici aziendali che si sono succeduti nel tempo, a partire da Daniele Fortini 2014-2016, poi Antonella Giglio, che è stata amministratrice unica dell'AMA fino al 2017. Nel frattempo, perché ho messo anche l'ATAC, perché viene, da questo punto di vista, si sta cercando di realizzare un nuovo piano industriale che consentirà all'ATAC di rispettare i paletti fissati nel concordato preventivo. Perché? Perché l'ATAC ha un debito da 1 miliardo e 400 milioni. C'è un piccolo problema: già c'era stato un piano industriale, un concordato preventivo. Adesso però, con i DPCM e il fatto che vi sono sempre meno utenti, secondo le stime dell'assessore dei trasporti del Comune di Roma, praticamente un romano su tre non prende più i mezzi, sono sempre meno i biglietti venduti e quindi peggiorano ulteriormente tutte le stime del piano industriale. Quello che io non capisco, ma lo dico nel senso, diciamo, più letterale del termine, è come mai l'ATAC, che deve studiare una nuova strategia per rientrare al maxi debito, e con tutti i dipendenti che ha, il maxi debito da 1 miliardo e 4 è congelato dal tribunale attraverso la nuova procedura, dicevo, come mai ha deciso come prima cosa di creare una struttura di consulenti? Evidentemente non c'era nessuno dentro l'ATAC che fosse in grado di aggiornare un piano industriale sulla base dei mancati introiti, in questo caso non colpa dell'ATAC perché ci sono meno passeggeri. No, la prima cosa che si fa, e questa è una tradizione a cui ci hanno abituato, è creare la struttura di consulenti, un super centro di consulenti. Quanti sono? 9. Un esperto di diritto societario, 2 non meglio precisati economisti, cioè vorrei sapere macroeconomisti, microeconomisti, economisti aziendali, economisti dei paesi in via di sviluppo, economisti dei trasporti, economisti de che. Poi dicevo, un consulente del lavoro, immagino che non vi sia nessuna parte legale, nessun ufficio del personale dentro l'ATAC, un comunicatore, ma che devi comunicare? Se devi ristrutturare un debito, ristruttura il debito, hai bisogno del comunicatore per comunicare che sta ristrutturando il debito, 2 esperti di processi tecnico-manutentivi e 2 di innovazione. E qua io sospendo ogni giudizio, faccio una specie di epoché. Avranno questo nuovo questa struttura, questo comitatone di 9 consulenti, avrà il compito di supportare l'amministratore delegato Giovanni Mottura nella complessiva rivisitazione del piano industriale alla base del piano concordatario. Ragazzi, per me questo resta un mistero, mentre non è un mistero, diciamo, il fai da te dell'AMA nella gestione dei conti pubblici, dei suoi bilanci e, appunto, e anche quanto dovrebbe restituire, pur con diversi pesi. Io l'applauso lo mando a tutte e due, l'AMA, l'ATAC, l'AMA perché, diciamo, il danno erariale è enorme, ma anche l'ATAC che come prima cosa mette in piano un bel gruppo di consulenti, non è da meno. Complimenti alle sorelle del jazz. Federico Colacicchi, cofondatore e managing partner di Techion, buonasera. Buonasera Sebastiano, grazie per l'ospitalità. Si figuri, allora cos'è Techion, quanti siete, chi vi ha aiutato, quanto fatturate, un fiorino, allora. E che anni ha lei, e un fiorino. Allora io ho 32 anni, ho fondato Techion insieme a Jacopo Tonelli che è il cofondatore. Si chiama ormai... Techion. E l'ho fondata 2 anni fa insieme a Jacopo Tonelli che è il cofondatore. Siamo partiti in due, ci siamo aiutati da soli, diciamo, nel senso che siamo cresciuti in autofinanziamento, quindi sostanzialmente investendo quelli che erano i ricavi dell'azienda in crescita e nuove assunzioni. Ad oggi siamo una 30 di risorse in Italia con un fatturato superiore al 1 milione, chiuderemo l'anno sopra il 1 milione di euro, avendo già raddoppiato quello che era il dato dell'anno scorso e con l'obiettivo di raddoppiare ulteriormente il fatturato, quindi superare 2 milioni di euro nel 2021. Senta, lei non mi ha spiegato cosa fate, Kion, però. Certo, volentieri. Noi siamo una società di ricerca e selezione esclusivamente specializzata e focalizzata nel segmento information technology, vale a dire che non siamo né Dunter generalista o un'agenzia per il lavoro, ma siamo appunto una società che è stata progettata, programmata e disegnata per intercettare una specifica tipologia di profili che sono quelli appunto afferenti al mondo dell'information technology, per tutta una serie di ragioni che poi se vuole le racconto. E quindi voi, adesso perché ci sono molti inglesismi, headhunting vuol dire cacciatore di teste, fate selezione del personale. Corretto, cacciatore di teste, ricerca e selezione di personale su una fascia, diciamo, medio-alta, quindi con un'età sia anagrafica che ovviamente di professionalità, che parte dai 5-6 anni di esperienza a salire fino ad arrivare ai vertici della funzione IT o sistema informativo all'interno delle aziende con le quali lavoriamo. Quindi cercate teste, persone, fate selezione di personale nel mondo dell'information technology, soprattutto, che immagino sia un mondo che ha molta richiesta visto la digitalizzazione chiesta alle piccole e medie imprese, ne abbiamo parlato anche ieri. Senta, i dipendenti diceva sono una 30, con che contratti? Siamo tutti a tempo indeterminato, ovviamente, tra l'altro abbiamo dei contratti molto competitivi, nel senso che sia le retribuzioni di base che le componenti variabili ovviamente ci consentono di attrarre professionisti, insomma, anche con molti anni di esperienza, talenti di un certo rilievo. Poi abbiamo ovviamente tutta una serie di politiche di welfare che vanno dalla smart working, introdotto già prima ovviamente dell'emergenza Covid, fino a tutta un'altra serie di ovviamente interventi a favore del benessere dei dipendenti, che insomma ci contraddistinguono abbastanza positivamente sul mercato in questo momento. E lei mi ha detto che ha 32 anni e cosa faceva prima? Facevo esattamente lo stesso mestiere, però all'interno di un grande gruppo multinazionale operante nel settore HR, risorse umane. E quindi ha creato la sua società. Ma sì. Com'è che non avete chiesto aiuto a nessuno, nel senso, dal punto di vista finanziario? Ma allora, diciamo che noi non abbiamo, diciamo, inteso Techion appunto come un prodotto finanziario, come qualcosa che dovesse necessariamente essere supportata da qualcuno. Abbiamo investito in quelle che erano le nostre capacità e poi successivamente sulle capacità dei nostri collaboratori. Non siamo ostili rispetto all'eventualità che qualcuno, insomma qualche partner industriale o qualche fondo di investimenti possa eventualmente interessarsi a noi. Non è un qualcosa che stiamo cercando, ripeto, perché la crescita insomma sta avvenendo in maniera piuttosto solida ed organica, però ripeto, insomma, porte aperte senza cercare questa opzione. Allora, in bocca al lupo a lei, ai suoi 30 collaboratori, quindi grazie a Federico Colacicchi, cofondatore di Techion. Andiamo adesso sul traffico e poi l'ultimo tema, si va verso il decreto ristori bis. Ho visto adesso l'agenzia, il Consiglio dei Ministri è convocato per questa sera, quindi è il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare via libera al decreto Ristori bis, con alcune novità, alcune le abbiamo già ricordate, l'ha detto lo stesso Presidente del Consiglio: il credito d'imposta al 60% sugli affitti di ottobre, novembre, dicembre, e stop dei contributi previdenziali per i dipendenti, rinvio dei versamenti per chi ha gli indici sintetici di affidabilità. Focus Economia. Dunque, 18 e 20 minuti, il Ristori bis. A cosa serve? Lo ha chiarito oggi il Presidente del Consiglio Conte. Serve a integrare i danni, diciamo così, causati dalle chiusure ulteriori, quindi per le fasce arancioni, per le zone arancioni e le zone rosse. Sentiamo questo passaggio. Abbiamo creato oggi, entreremo in Consiglio dei Ministri e creeremo anche un fondo dove andremo a mettere ulteriori risorse nell'ipotesi in cui ci fossero variazioni tra le zone gialle, rosse e arancione, perché vogliamo contemporaneamente disporre anche di stanziamenti immediati. Allora, Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, che vi siano variazioni lo do per scontato, nel momento in cui tu, per esempio, bar, ristoranti, ma anche negozi di abbigliamento, mi hanno scritto giustamente i dipendenti, chi lavora nel mondo dell'abbigliamento, sono chiusi nelle zone rosse, o meglio, bar e ristoranti solo a sport, il resto i negozi, li abbiamo data ieri la lista, per esempio se tu vendi in biancheria intima o calzature per bambini neonati puoi restare aperto, anche biancheria personale, però insomma nel momento in cui tu dai un giro di vite zone arancioni, zone rosse sui negozi, è chiaro che dovrai trovare soldi in più, perché le zone gialle hanno già il primo DDL Ristori che abbiamo descritto molte volte, che valeva complessivamente come fondi come risorse a fondo perduto per le attività chiuse o parzialmente chiuse 2 miliardi e 440 milioni. Adesso, se ho ben capito, questo decreto di Ristori bis attingerà un altro fondo da 1,5 miliardi, 2 miliardi, che viene ricavato dai risparmi per la cassa integrazione, si è speso di meno di quanto stanziato. La domanda è la seguente: allora, come si fa? Allora, nelle zone gialle, ho capito benissimo, resta il vecchio decreto Ristori, non è cambiato nulla. Zone rosse e arancioni. Il Premier appunto ha anticipato un credito d'imposta al 60% su affitti di ottobre, novembre, dicembre. Lì come farà il... cioè, io sono il ristorante o il bar, faccio l'esempio più semplice, che ero già previsto nelle categorie del primo DL Ristori, e nel caso del ristorante avevo un coefficiente per due, cioè mi veniva dato due volte quello che avevo ottenuto ad aprile, nel caso del bar una volta e mezzo. Adesso però io ho chiuso completamente, anche a pranzo, vale anche per il bar. Come viene calcolato questo, diciamo, ulteriore danno? Infatti il problema, uno dei problemi è esattamente quello, ci dovrà essere una integrazione dal momento che il ristoro, per usare il vocabolario governativo, del primo decreto era legato al fatto che io ti chiudevo sostanzialmente dalle 18 in poi, mentre ora nelle regioni rosse e nelle regioni arancioni ti chiudo del tutto, quindi devo integrare l'indennizzo. Ma non solo, i cambiamenti rispetto al primo decreto, alla situazione fotografata dal primo decreto, sono evidenti, ma il problema aggiuntivo è che ci saranno cambiamenti in corso, già si discute di alcune delle regioni gialle, quindi quelle a un livello di rischio teoricamente minore, che dovrebbero passare invece in fascia arancione a breve. Il passaggio in fascia arancione, è inutile fare i nomi delle regioni, le vedremo nei prossimi giorni, insomma. Beh, se questa ipotesi sarà confermata. Campania e Veneto, mi sembra di aver letto. Insomma, allora facciamoli Campania, Liguria e Umbria sono tra le prime, però sono ipotesi, lo vedremo. Comunque sia, quando tu cambi il colore di una regione, naturalmente cambi il quadro delle attività che vengono chiuse o limitate, e quindi cambi, diciamo così, la necessità la geografia della distribuzione degli aiuti necessari. Per questa ragione il decreto dovrebbe istituire un fondo, infatti anche il Premier parla di fondo, e poi il Ministero dell'Economia con decreti ministeriali potrà distribuire questo fondo sulla base appunto delle evoluzioni di settimana in settimana dei monitoraggi. Tutto questo naturalmente in teoria, perché nella pratica sono 3 giorni che sono riuniti per cercare di produrre questo decreto che doveva andare in Consiglio dei Ministri già il giorno dopo la conferenza stampa di Conte, ormai di giorni ne sono passati 3 e il Consiglio dei Ministri dovrebbe tenersi in serata tarda barra nottata, proprio perché c'è una complessità tecnica non indifferente nel creare un sistema di aiuti modulare in grado di adeguarsi alle evoluzioni della situazione. Allora, risponde l'ascoltatore, guarda, che mi dice, ma chi è in una zona verde? No, le zone verdi non esistono, la zona verde la intende la zona gialla. La zona gialla ha già il decreto, è un ristoratore che lavora a Roma, nel centro di Roma, ha già il DL Ristori, il primo decreto Ristori, l'abbiamo spiegato moltissime volte. Nel caso del ristorante, lei prende quanto ha ottenuto ad aprile e lo moltiplica per 2. Il problema invece adesso, Gianni, che io continuo a non capire, mi rendo conto che non sia facile, perché aver modulato era molto più facile con le categorie, i codici Ateco che abbiamo raccontato, e tu o eri dentro o non eri dentro. Adesso ti faccio un esempio: nelle categorie del DL Ristori non c'erano i negozi di abbigliamento, perché quelli restavano aperti e restano tuttora aperti nelle aree gialle. Cosa si fa? Si aggiungono ai codici Ateco a seconda delle aree rosse, e poi anche lì è chiaro che è tutto spannometrico. Come si fa a calcolare? Il bar avevano un coefficiente un po' più basso dei ristoranti, perché si diceva il bar, che comunque è aperto fino alle 18 e si dice nelle zone gialle, ha un danno minore rispetto a un ristorante che deve chiudere alle 18 e non ha la cena. Però come si fa adesso a calcolare anche i bar che invece sono nelle zone rosse, e quelli chiudono anche loro sempre tranne che per asporto? Allora, per quanto riguarda le categorie che non c'erano nel primo decreto e che invece sono colpite dal nuovo provvedimento, bisogna estendere la lista dei codici Ateco. Questo per esempio per tutte le attività commerciali che sono chiuse nelle zone rosse, sono aperte nelle zone gialle, quindi erano di fatto ignorate dal primo decreto, devono essere inserite nell'elenco dei beneficiari degli aiuti. Tra queste categorie, ricordiamolo, ci sono anche i centri commerciali, che anche i centri commerciali, sì, ecco, che anche nelle zone gialle vengono chiusi, dovranno chiudere al weekend, sabato e la domenica, e che peraltro sono i giorni nei quali fatturano la gran parte, diciamo, delle entrate settimanali, e quindi una estensione delle categorie interessate dagli aiuti è inevitabile. Per quel che riguarda invece la misura degli aiuti, tu citavi il criterio spannometrico del primo decreto, naturalmente aumentando la complessità delle integrazioni e così via, ci sarà un criterio spannometrico al quadrato, nel senso che bisognerà individuare, diciamo così, una integrazione standard, perché peraltro il principio, diciamo, di massima generale è quello in virtù del quale all'attività chiusa spetterà un rimborso doppio rispetto a quello di aprile. In qualche caso, come ricordavi però tu, il rimborso doppio rispetto a quello calcolato su aprile esiste già per alcune delle categorie non chiuse del tutto, quindi sicuramente i disallineamenti, quindi è probabile che la spannometricità in aumento. Sì, è probabile che i bar, tutti quelli che erano a 1,5 finiranno a coefficiente 2. Esattamente così. Allora, poi lunedì commenteremo il decreto vero e proprio di Story Bis, perché stasera si riunisce il Consiglio dei Ministri. Grazie intanto a Gianni Trovati per questa spiegazione. Grazie come sempre a Maria Sole Lisciandro e a Danilo Di Trani per l'assistenza in redazione e in studio. A me non resta che augurarvi comunque un buon fine settimana. Chi sta nella zona arancione rossa chiaramente lo passerà, diciamo, limitando gli spostamenti di solo le cose essenziali, e chi invece sta nella zona gialla, beato lui, se può dire, non lo so, cioè non è che beato, no. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.